Questo studio ha uno scopo: riconoscere, sviluppare ed esercitare al massimo il tuo dono ricevuto da Dio. L'omiletica consiste nella scienza e nell'arte necessarie per preparare e pronunciare dei discorsi basati sulla parola di Dio. Per scienza si intende una determinata conoscenza. Per arte si intende l'applicazione e l'uso della conoscenza. Più di un sermone è stato perduto per l'uditorio per un difetto d'ordine. Molte buone cose sono state dette durante il discorso, ma furono così confuse che solo una mente bene addestrata poteva capirle. I discorsi sconnessi sono per la mente quello che i cibi mal preparati sono per lo stomaco. Il bisogno dominante ai nostri giorni per la predicazione è quello di avere A. una preparazione soprattutto intelligente del sermone. B. un modo migliore e più logico di usare il materiale. C. una più chiara e più ardita presentazione della verità. Tre parole devono essere presenti nella nostra mente: dono o il talento viene da Dio. La conoscenza sgorga da uno studio coscienzioso e approfondito della parola di Dio. La capacità si sviluppa via che il dono viene esercitato regolarmente in una sfera spirituale. Non ci può essere impressione senza un'espressione corrispondente. Dobbiamo ricordarci che vi è una sola via per entrare nelle verità di Dio: mediante i tuoi precetti io divento intelligente. Salmo 119:104. LQALIFICHDELPRDICATORE. Non possiamo separare il predicatore dalla sua predica. L'uomo è quello che è il suo messaggio. Il predicatore è quello che è la sua predica. L'oratore è il suo sermone. Consideriamo 7 qualifiche essenziali per un predicatore o insegnante della parola di Dio. 1. Deve essere nato di nuovo. Fu proprio ad una persona sincera e religiosa che Gesù disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo non può vedere, comprendere e annunziare il regno di Dio. Egli è un cieco che guida gli altri ciechi. 2. Deve amare il Signore Gesù. Solo quando l'amore personale per Cristo diventa il motivo dominante del servizio, la predicazione vale qualcosa. L'espressione l'amore di Cristo si trova 3 volte nel Nuovo Testamento. Efesini 3:19. Esso deve essere il nostro supremo studio. 2 Corinzi 5:14-15 e la fonte che ci induce al servizio con sacrificio. Romani 8:35-39 e il potente sostegno del credente. La chiamata di Pietro ne è un esempio. Giovanni 21:15-19. L'amore per Cristo deve essere l'impulso dinamico per compiere qualsiasi servizio per il Signore. 3. Deve amare le anime. Una cosa è godere di predicare, e un'altra è amare quelli ai quali si predica. Un medico può curare e non amare i suoi pazienti. Un avvocato può aiutare i suoi patrocinati e non amarli. Intrattenere un pubblico con la propria eloquenza può diventare un'insidia se disgiunta dal vero amore per le anime. Il desiderio di attirare l'attenzione su se stesso e la lode degli uomini ha rovinato molti predicatori. 4. Deve essere uno studioso della parola di Dio. Poiché la Bibbia è la suprema autorità del predicatore ed il soggetto di ogni predica, è essenziale che egli conosca il suo contenuto nel suo insieme. Lo stesso farebbe un insegnante di musica, di matematica o di arte. Un predicatore deve leggere ogni giorno almeno 4 capitoli della Bibbia per poterla leggere nel corso di un anno. Deve informarsi sul lato storico, culturale e linguistico del popolo ebraico. Deve essere capace di citare a memoria certi passi della Scrittura. Il lavoro del predicatore è duro, ma è fatto per il migliore padrone che uno possa avere. 5. Deve essere un uomo di preghiera. Chi desidera parlare all'uomo di Dio deve parlare molto a Dio per l'uomo. L'esempio di Gesù come servo perfetto di Dio deve servirci a convincerci della necessità e del valore della preghiera. Solo nell'Evangelo di Luca abbiamo 10 riferimenti alla sua preghiera. Ogni predicazione deve essere santificata dalla preghiera nella sua preparazione ed esposizione. Chi non ha tempo per pregare non ne può avere per predicare. Predicare senza pregare è parlare di Dio senza Dio. 6. Deve essere idoneo al suo lavoro. Questa attitudine va considerata sotto 4 aspetti: dello spirito, del fisico, dell'intelletto, dell'istruzione. Un predicatore non deve solo essere rigenerato, ma deve aver ricevuto da Dio il dono di predicare e di insegnare. Ogni cristiano è il dono di predicare è un incarico dato da Dio. 1 Pietro 4, 10, 11. Egli è responsabile verso il donatore. Luca 19, 12, 27. Non deve trascurarlo. 2 Timoteo 1, 6. Deve badare al ministero ricevuto. 1 Timoteo 4, 14. Colossesi 4, 17. B. Deve essere fisicamente idoneo. La parola di Dio riconosce che molto studiare è una fatica per il corpo. Ecclesiaste Mezzogiorno 14. Il predicatore, più di ogni altro, deve aver cura del proprio corpo, perché esso è il veicolo divino attraverso il quale lo Spirito di Dio si manifesta. Il predicatore deve aver cura di ciò che mangia, di come si veste, dove va. Non deve lasciarsi arrugginire dalla pigrizia. Non si deve logorare per il troppo lavoro, ma deve essere temperato in ogni cosa. 1 Corinzi 9, 24-37. C. Deve essere intellettualmente idoneo. Una mente sana deve essere il patrimonio di un predicatore. Egli deve essere capace di percepire in un concetto il senso giusto e saper giungere ad una esatta stima del valore o di quello che legge o di quello che ode. Una parola sana viene da un pensiero sano, quindi è necessario che il predicatore sia capace di pensare in modo sano, equilibrato, sobrio. Ogni estremismo ha discreditato il messaggio del Vangelo. D. Deve avere un'idonea istruzione. Sta scritto: maledetto colui che fa l'opera del Signore fiaccamente, Geremia 48:10. Quando un cristiano ha ricevuto il dono di predicare è solo all'inizio, egli deve applicarsi perché questo dono possa essere esercitato nel modo migliore. Il predicatore è un operaio che non deve rimanere confuso, 2 Timoteo 2:15, e ciò presuppone una preparazione accurata attingendo da ogni fonte di informazione sana, cercherà con tutti i mezzi di istruirsi e dovrà essere un lettore di ampie vedute. A proposito di lettura, il predicatore dovrà leggersi almeno 3 libri all'anno. Per esercitarci possiamo leggere il libro di Watchman Nee, l'operaio. Dobbiamo distinguere la conoscenza dalla saggezza. La conoscenza consiste in una accumulazione intellettuale di fatti. La saggezza sta nella capacità di collegare, ritenere ed usare tale fatti correttamente. Come esercizio leggiamo un tema affrontato da Watchman Nee e ne facciamo un riassunto sia scritto che orale. Perché in definitiva si nasce con il dono di predicare, ma predicatori non si nasce. Si diventa. L'origine della parola sermone deriva dal latino che significa stoccata, botta o colpo. Lo scopo del predicatore sarà quindi quello di colpire gli ascoltatori e non di far nostra della propria conoscenza. Un sermone, perché possa essere efficace, deve contenere alcuni elementi essenziali. Uno, deve essere una esortazione orale. Chi predica deve essere udito dal pubblico con parole chiaramente pronunciate in modo da essere comprese dai presenti. 2. È diretto alle menti comuni. Perché un sermone debba essere capito, deve contenere parole di facile comprensione. Un giorno una sorella mi disse che aveva ascoltato un brevissimo predicatore. Gli chiesi che cosa aveva detto ed essa mi rispose: non ho capito niente, ma ha parlato così bene. Un bel messaggio. Se non è compreso, non serve né al predicatore né agli ascoltatori. Generalmente coloro che hanno discorsi sinuosi, tortuosi, hanno lo scopo di nascondere delle verità. 3. E. Basato sulle verità scritturali. Ogni discorso politico, ogni disquisizione scientifica devono essere evitati. Il predicatore non è chiamato a riformare la società, ma a rigenerarla con la parola di Dio. E. La parola di Dio, che è la potenza dinamite di Dio per la salvezza spirituale, morale, fisica, personale, sociale, di chiunque crede. 4. È completo sotto ogni aspetto. Il testo del sermone deve essere esaminato accuratamente, il senso spiegato, la sua verità illustrata. L'insegnamento deve essere applicato agli ascoltatori. 5. Deve persuadere. Lo scopo del predicatore non è solo quello di fare una esposizione della parola di Dio, ma di spingere ad accettare e ad ubbidire alla verità esposta. Senza questo scopo il sermone sarà inutile. 6. Deve essere vissuto. Nessun credente riuscirà a realizzare ciò che predica, perché il messaggio supererà sempre il messaggero. ma chi predica deve avere nel cuore il fermo proponimento di vivere ciò che afferma. Il sermone può essere paragonato ad un ponte che superi l'abisso tra l'ignoranza e la conoscenza, l'indifferenza e l'interesse, la miscredenza e la fede, il dubbio e la decisione. Lo scopo del predicatore sarà quello di condurre i suoi ascoltatori ad attraversare questo ponte. Essa è molto importante perché senza una giusta introduzione un sermone può essere perso. Lo scopo dell'introduzione è quello di portare gli ascoltatori a desiderare di conoscere il contenuto del sermone. Se affrontiamo una problematica, dobbiamo prima crearla, perché non tutti gli ascoltatori possono averla se la sono posta. Se per esempio affronto l'argomento della divinità di Gesù, dovrò prima spiegare come e perché alcuni non credono che Gesù sia Dio. Nell'introduzione si deve dire agli ascoltatori il tema che si vuole trattare perché un titolo prepara l'uditorio all'ascolto. 2. L'esposizione è il messaggio che si vuole trasmettere, è portare l'ascoltatore sul ponte. Perché un messaggio rimanga impresso si deve sapere che cosa vogliamo che gli ascoltatori ricordino. Raggiunge uno scopo solo chi ha uno scopo nel predicare. A proposito, occorre ricordare che solo il 3% di quello che viene udito rimane impresso, per cui troppe verità confondono e non possono essere ritenute. Troppi sermoni sono andati persi perché chi predicava voleva dire tutto, usando tutta la Bibbia, trattando dalla Genesi all'Apocalisse. Ricordiamo che uno dei grandi scopi della predicazione è quello di esporre la verità in modo da risolvere i quesiti che sorgono naturalmente nelle menti di coloro che leggono la Bibbia con attenzione e che desiderano conoscere il giusto senso per poi metterle in pratica. 3. La conclusione è condurre l'ascoltatore sul terreno in cui si trova il predicatore e condurre l'ascoltatore oltre il ponte. La conclusione non dovrà essere lunga, essa ha lo scopo di riassumere in poche parole il messaggio che si è trasmesso. Una conclusione sbagliata può distruggere un buon sermone. Come esercizio dobbiamo leggere il 12° discorso di Charles G. Finney nel libro Risvegli religiosi. Non è possibile leggere la parola di Dio senza tenere presente alcune regole fondamentali che governano la sua interpretazione. È vero che lo Spirito Santo è il grande interprete della parola di Dio, ma è altresì vero che lo Spirito Santo guida il cristiano entro certe regole. Se, per esempio, l'interpretazione non porta ad un cammino di santità, ciò deve essere ritenuto interpretato erroneamente. La disciplina che regola l'interpretazione di un testo si chiama ermeneutica. Ecco alcune di queste regole. 1. Il senso della scrittura va trovato nel significato grammaticale delle parole. Il rispetto del senso grammaticale costituisce la regola fondamentale nello studio di tutti i libri e la Bibbia, benché a giusto titolo sia riverita come il libro dei libri, resta pur sempre un libro. In essa possiamo trovare la presenza della metafora e del simbolo, ma non al punto da richiedere l'abbandono del principio dell'obbedienza al senso grammaticale. Consideriamo il testo di Matteo 16 e 18. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Questo versetto è stato ed è tuttora oggetto di discordia tra cattolici e protestanti. Ma il senso grammaticale è chiaro. La chiesa è fondata sulla pietra, e qualsiasi interpretazione che noi diamo non può scostarsi da questo aspetto. 2. La scrittura si interpreta con la scrittura. Questa regola è importante soprattutto là dove occorre dare un significato alle parole. Prendiamo come esempio la parola pietra nell'affermazione di Gesù citata in Matteo 16:18. Poiché vi sono varie interpretazioni, occorre saggiamente confrontare altre parti della scrittura che citano tale soggetto. Così leggiamo che lo stesso Pietro e l'apostolo Paolo vedono nella pietra angolare, che costituisce la Chiesa la stessa persona di Gesù Cristo, 1 Pietro 2, 1-8, Efesini 2, 19-22. 3. Un testo, preso fuori dal contesto, diventa un pretesto. Qualsiasi definizione biblica, presa fuori dal suo contesto, può portare a conclusioni contrarie al suo significato. Con la Bibbia posso dimostrare che essa afferma che Dio non esiste, Salmo 14, 1. Ma il suo contesto mette in evidenza che tale affermazione la fa lo stolto. Così succede spesso di ascoltare delle argomentazioni su passi biblici motivate da pretesti per sostenere tesi preconcette. Se viene letta senza preconcetti, l'affermazione di Gesù in Matteo 16 e 18 non porta certamente alla conclusione che ne dà il cattolicesimo. 4. Conservare il senso letterale. Ovunque lo permetta l'armonia della scrittura e non lo vieti la ragione, quella che non altera il senso. Letterale resta sempre l'interpretazione più onesta, e 9 volte su 10, quella più razionale e significativa. Quando si afferma che la Bibbia deve essere interpretata letteralmente, non significa che essa non contenga elementi metaforici, ma semplicemente che quando uno scrittore impiega una metafora, il testo deve essere compreso in forma metaforica ed il suo significato metaforico è il suo significato letterale. Nel passo di Matteo 16 e 18 possiamo notare come sia indispensabile conservare il senso letterale. Gesù è la pietra angolare della Chiesa, non nel senso che sia veramente una pietra, ovvero un minerale, ma egli è la pietra a tutti gli effetti. Su di lui è costruita la Chiesa, essendo la pietra angolare, cioè quella su cui poggia tutto l'edificio, perché egli è la base sicura su cui appoggiare il piede della fede. Anzi, l'immagine è sempre inferiore al significato reale. 5. Distinguere a chi è rivolto il messaggio. Come è vero che non bisogna fare di tutte le erbe un fascio, così occorre di volta in volta considerare il destinatario al quale è rivolto il messaggio. Un giorno Pietro, nell'udire una parabola, chiese: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Luca, mezzogiorno e 41. Egli era cosciente che le parole di Gesù non erano rivolte a tutti. Così, tenendo presente le altre parti della Scrittura, comprendiamo che l'ordine di perdonare i peccati è stato rivolto a tutti, Matteo 18 e 18, e non solo a Pietro. Per un maggior approfondimento consiglio la lettura e lo studio del libro di Alfred Quinn, Come interpretare la Bibbia. Dopo aver tenuto presente le regole che governano l'interpretazione della Scrittura, il predicatore dovrà applicarle nel preparare il suo messaggio. Ecco di seguito alcuni atteggiamenti. 1. Privilegiare ciò che colpisce. Mentre il predicatore legge e studia la parola di Dio, certi passi o temi della Scrittura gli parleranno particolarmente, per cui egli dovrebbe preferire quello che lo Spirito gli ha comunicato. Essere guidati dallo Spirito significa credere che Dio dà il messaggio giusto al momento giusto alle persone giuste. 2. Avvalersi di alcuni strumenti. Credere che si possa comprendere la Bibbia sa soli è frutto della presunzione più che della fede. Per cui chi vuole conoscere il pensiero di Dio ha bisogno innanzitutto di svariate e buone traduzioni, soprattutto se studia un versetto o una parola. Inoltre, per sovvenire alle nostre lacune occorre una concordanza, un dizionario biblico, alcuni commentari e libri che informino sugli usi e costumi degli ebrei. 3. Attenersi a ciò che afferma il testo. Nessuna interpretazione giusta può scaturire da una errata comprensione del testo, per cui il predicatore dovrà innanzitutto attenersi a ciò che è scritto. Per comprendere bene il testo occorre tenere presente gli usi, i costumi e la geografia biblica. Se leggiamo la parabola delle 10 vergini, per prima cosa considereremo il lato culturale e storico. Le vergini avevano le lampade perché i matrimoni venivano celebrati di sera. 4. Trovare i passi paralleli. È probabile che lo stesso brano della scrittura abbia passi paralleli per cui essi vanno letti per avere una visione più globale del testo e per non fare affermazioni assurde. Se leggiamo la crocifissione di Gesù solo nell'Evangelo di Matteo, possiamo concludere che i due ladroni morirono dopo aver insultato Gesù. Solo dagli altri Evangeli sappiamo che uno di essi in seguito si pentì. 5. Accordare le contraddizioni. La parola di Dio è inerrante e con questo principio deve essere letta. Spesso dove ci sono apparenti contraddizioni, vi sono nascoste meravigliose verità. Se leggiamo le quattro scritte sulla croce, riportate dagli evangelisti, nessuna di esse è uguale, ma se le confrontiamo troveremo che ogni evangelista ha riportato una parte dell'iscrizione. 6. Privilegiare l'interpretazione letterale. Il desiderio di allegorizzare è il nemico più grande dell'interprete, e spesso di quello che non comprende appieno il testo. La Bibbia contiene parabole, ma prima di poterle interpretare correttamente, devono essere comprese nel senso letterale. Il Salmo 29 descrive l'onnipotenza di Dio, che fa saltellare i monti come vitelli, ma i monti con un terremoto saltellano veramente come vitelli. Ogni espressione metaforica ha in sé un elemento letterale. I simboli devono essere usati secondo la funzione loro assegnata da Dio, per cui non si può costruire nessuna dottrina su un simbolo. 7. Terminare con una applicazione pratica. Ogni messaggio deve condurre l'ascoltatore ad essere facitore della parola. Un bel messaggio che non si traduce in pratica rimane oratoria inutile e vana. Come esercizio possiamo studiare la parabola del fattore infedele che troviamo in Luca 16, oppure qualcosa che riteniamo dallo Spirito Santo. ILDECALOGODELPREDICATORE. Chi parla lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. 1 Pietro 4:11. Se tu sei impegnato nel bellissimo e impegnatissimo compito di predicare, tieni presente questi consigli che possono migliorare il tuo rapporto con chi ti ascolta. 1. Il tuo messaggio sia il risultato di lunghe riflessioni che scaturiscono dalla parola di Dio che ti ha parlato in un modo particolare. 2. Nell'esporre il tuo pensiero abbi soprattutto come meta una verità della Scrittura e non cercare di esporre tutto il consiglio di Dio in una sola predicazione. 3. Ricordati che stai presentando gli oracoli di Dio. Attento quindi anche al tuo tono di voce che può influenzare negativamente sul messaggio. Non stai conversando ma predicando la parola di Dio. Quando è necessario marca, anche con il tono di voce, alcune espressioni. 4. Stai attento alle ripetizioni. A volte è giusto ripetere alcuni pensieri, ma diventa inutile ritornarci sopra. 5. Che il tuo linguaggio non sia troppo tecnico. In alcune occasioni occorrerà usare parole difficili. Ma cerca subito di spiegare il suo significato. Il tuo scopo sia quello di non fare un discorso ineccepibile, ma che gli ascoltatori capiscano quello che vuoi comunicare. 6. Ci sono delle letture bibliche che sono inutili. Se parli dell'amore di Dio, non leggere o non far leggere brani che, per ampliare il tuo discorso, non si riferiscono al tema che tratti. Ciò allontana dalla verità centrale. 7. Il tuo messaggio abbia una struttura. Non serve dire tante verità scomposte, ma il tuo discorso assomigli al tema di uno scolaro. 1. Presentazione, cioè prepara gli ascoltatori ad entrare nell'argomento che affronti. 2. Corpo, esponi il messaggio che hai. 3. Conclusione, riassumi in poche parole l'argomento esposto. 8. Tieni in considerazione quanto può seguirti l'uditorio. Vi sono temi che permettono maggiore esposizione, perché gli ascoltatori sono interessati, ma in genere un messaggio che non supera i 40 minuti è accettabile. Puoi benissimo andare oltre se sai catturare l'attenzione del pubblico. 9. Quando basi il tuo messaggio su di un versetto, accertati prima che sia stato tradotto fedelmente. Ricordati che la tua Bibbia è sempre una delle tante traduzioni. 10. Appoggia il tuo discorso con affermazioni di altri. Il cristianesimo ha una storia di 2000 anni e qualsiasi tema che affronti è già stato più o meno già esaminato. Dopo che hai affrontato l'argomento alla luce della parola di Dio, considera le opinioni degli altri. PS. Ogni tanto informati dai fratelli la validità del tuo ministero. Vedere su Prospettive di Dio, numero 20 di Studi di Teologia, 1987, secondi semestre, come preparare e predicare i sermoni,